Posso? È questa? Ne sei certa? Sì. Quindi ci sono finalmente. Sai quando passa? Di base non c'è un'ora specifica, ma dovrebbe passare. È molto che aspetti? Sì. E non ancora mai? Sì, una volta. È che non sono stata abbastanza veloce, si sono chiuse le porte mentre stavo per entrare. Ah, capisco. Anch'io aspetto da un po', sai? Ma non l'ho mai vista passare. Forse perché ogni tanto risalgo in superficie. Sai, preferisco accertarmi che sia la fermata giusta, ma lassù nessuno sa dirmi niente. Effettivamente non è una fermata molto frequentata. Vero? Sì, ci viene solo chi deve andare in quella direzione. Quindi siamo sicuri? Cos'è? Questo qua è uno yo-yo. Posso? Stai scherzando? No, voglio vederlo. Ti basta? Aspetta un attimo, rifallo. No, adesso basta. Molto interessante, a che serve? È uno scaccia pensieri. Senti, possiamo piantarla con questo interrogatorio? Senti, preferirei di no, ma se ti do fastidio. Sì, mi dai molto fastidio, io vorrei stare un po' per i fatti miei, ok? Ok. Ok. Perché non passa? Scusi, sa dirmi quando passa? Passa. Bisogna aspettare, ma passa. Se questa volta non passa, invio una lettera di protesta all'ente di gestione. È la terza volta che vengo qui. Uh-huh. E non è mai entrata? No. Effettivamente, se fosse già entrata, ora non sarebbe qui. Cos'è, non le piacciono i vagoni? No, non è questo. Ah, mi sembrava. Allora cos'è che le impedisce di prendere la metro? Non ci riesco. Arrivo sempre o troppo presto o troppo tardi. Basta aspettare la corsa successiva. Lo so, ma purtroppo mi hanno sempre portato via prima che arrivasse. E perché l'hanno portata via? Perché non vogliono che venga qui. Chi non vuole? Mia madre. E perché? Perché ha paura che non torni più. E ha ragione di pensarlo? Quante domande? Comunque qui l'ente non c'entra niente, il problema è suo. Se veramente ci tiene, stia buona e aspetti. Mi sembra facile. Abbastanza. Beh, non per me. Senta, se proprio vuole così tanto andare, perché non si mette seduta? Magari sta anche un po' zitta e aspetta come fanno tutti gli altri. Cosa? Ma sei stato lei a farmi tutte quelle domande? Smetto subito. Se vuole le diamo una mano a nascondersi. Sì, e dove secondo lei? Sotto la panca? La capra crepa. No, ma la metro è grande, possiamo scendere o andare dall'altra parte dei binari? No. E se poi passa la metro? E se arriva sua madre? Io resto qui. Allora possiamo fare un calcolo delle possibilità e da lì stabilire il dove, il quanto, il quando, il se. Ma di cosa stai parlando? Ti rendi conto che abbiamo poco tempo? Senta, però io non riesco a pensare se lei continua a parlare. Le ho appena detto che passa. Perché non si accontenta di quello che le dico? E perché lei continua ad ascoltarmi? Si tappi le orecchie e faccia finta che non esisto, no? Ignorante cafone. No, si fidi, eh? È una in gamba. Guardi come fuma. Ha una tecnica del polso interessantissima. La sigaretta sembra un rasoio, non lo vede? No, non lo vedo e non mi fido. Scusa, c'è un distributore in questa stazione? No. Fatemi capire. Dobbiamo stare qui senza sapere per quanto tempo, senza sapere niente? Che cosa vuoi sapere? Non lo so, non c'è un orario scritto da qualche parte a cui poter far riferimento. In teoria sì, ci sarebbe. Ma non è stato ancora aggiornato, ok? E comunque è ancora troppo presto. Vivi qui dentro tu? No, ma io ci vengo spesso. E sai se c'è un bar, un distributore o qualcosa dove poter prendere da bere? Ti ho già detto di no. Grazie lo stesso. Hai bisogno di bere? Sì. Tu hai qualcosa da bere? No, ho lasciato tutto su. Grazie. De rien. Va bene, se proprio dobbiamo aspettare tutti insieme, facciamo un po' di conoscenza, no? Io sono Silvia, piacere. Abdallah, piacere. Che carino. Non sei di qui? No, sono algerino da parte di padre e tedesco da parte di madre. Affascinante, anche io sono in parte tedesca. Mio padre lo era. Che bello, allora abbiamo qualcosa in comune. Lei per caso ha qualcosa da bere? No. Grazie. Piacere, Silvia. Mark Rocco. Piacere, Silvia. Marina Svetaeva. Io sono Marina Svetaeva. Straniera? Per quel che posso dire, sì, da sempre. Capisco, la prego. Può spegnere quel registratore, mi inquieta. Mi dispiace, è impossibile. Sto effettuando uno studio sugli odori e la loro connessione con le guerre tra i popoli in scala da 1 a 100.000. Capisce bene che se interrompo ora poi non avrò più il tempo di trovare la soluzione di interconnessione atmodoreica, no? E lo fa con un registratore? Certo, è un registratore. Capisco, comunque io sono Silvia, piacere. Alfred. Jerry, Alfred. Sì. Sono francese. Enchanté. E piacere, Silvia. Io sono Sara. Piacere. Bene, benissimo. Ora che sappiamo tutti chi siamo, per qualsiasi cosa mi metto qui buona buona e aspetto nuovi ordini dall'alto. Ehi, ti piace camminare? Sì. Scusami se ti ho risposto male prima, era la seconda volta che me lo chiedevi. Non fa niente. Credi che passerà? Beh, ce lo stiamo chiedendo tutti, credo, ma a quanto pare è impossibile sapere quando. Le consiglio di non pensarci troppo, le potrebbe fare male. E lei stia al suo posto e faccia semplicemente quello che deve fare. Mi scusi, mi dispiace contraddirla, ma io non riesco a fare niente semplicemente. Disprezzo tutto ciò che è semplicemente. Per carità, non volevo offenderla. Mi rendo conto che è difficile stare lì. Mi prende in giro? Tanto quanto lei prende in giro me. Le vorrei ricordare che il suo compito è solo quello di dare informazioni su quanto accade qui, nient'altro. Lei non ha nessun diritto di dirmi come mi devo comportare. Ti devi rassegnare allora, piccolina, e aspettare. Perché se è vero che l'hai scelto questa volta non puoi sbagliarti. Esistere e decidere come impiegare il mio tempo è un mio diritto. Non sopporto che uno come lei venga a dirmi cosa devo fare o come devo aspettare. Ma perché ti innervosisci tanto? I miei sono solo consigli. Sì. Beh, i tuoi consigli non piacciono a nessuno, ok? E tu piantala con queste fissazioni, è già tutto troppo complicato, no? Va bene. Ce l'ho, ce l'ho. Posso anche io? Certo. Che profumo è? Tulipa, è il mio preferito. Che schifo. Vuoi anche tu? Sì. No, non voglio! Ma mi altera gli odori! Ma che hai fatto, porca puttana, maledetto schifo! Fanculo, merda! Oddio, scusami, non potevo immaginare. Merda, merda, merda! Ma dai, è solo un profumo! Ma tu non capisci cosa hai fatto! Tu, e tu togliti da qui! Non ti avvicinare mai più con quel coso, capito? Tu non stai bene. Siamo certi che non stiamo aspettando inutilmente? Ma chissà, forse sì, forse no. Oh... ecco Cassandra che giunge fra noi, ma ahimè senza portare nessuna notizia dall'oracolo. Che cosa ci facevi lassù? Contemplavo l'anima mia ormai distaccata da me e lontana anni luce da ciò che ero. Oh. Pesa molto? Sì, molto. E cosa c'è dentro? Le mie cose, tutte le mie cose, anche se oramai ogni cosa di me appartiene al mondo. Ma perché non passa? Ma... noi due ci conosciamo? Impossibile. Mi scusi, lei che sembra il più informato, sa dirmi quanto manca? Se guarda in quella direzione la vede? Ma è tutto nero. Appunto, ma se guarda bene là in fondo. Io non vedo niente. Lei non vuole vedere. E io vedo e come invece. E vedo il mio corpo disfarsi istante dopo istante per il troppo amore che porto con me. E chi è il fortunato? Chi sono? Perché lei ha più di un uomo? Certo, come si fa ad amare una sola persona? L'amore per la vita, per la bellezza, non si può circoscrivere in un unico corpo essenza. Molto interessante. Quindi ci sta dicendo che lei riesce ad amare più uomini contemporaneamente. Sì, ma non è quel tipo di amore banale che può esserci tra uomo e donna. Ah, perché adesso esiste un modo di amare più o meno banale. Io per poter amare devo essere amata straordinariamente, altrimenti non ne sarò capace. Perché banalizzare un sentimento che ci dovrebbe rendere perfetti? Questo è molto interessante. Quindi dal tuo punto di vista, se uno si innamora solamente perché ne ha bisogno, sta banalizzando l'amore. Sì. Ed è tutto in quella valigia. Scusa? Il tuo corpo fatto a pezzi con tutto questo straordinario amore per uomini, donne, bambini, animali e cose, tutto lì. Sì, e tutto ciò che ne è stato prodotto. Allora, se tutto l'amore di cui parla è dentro quella valigia, le chiederei di aprirla e di mostrarmelo. Che odore ha l'amore nella valigia? L'amore nella valigia ha l'odore di un amore mai consumato, poiché distratto dai colpi di fucili, dagli strappi che si danno alle carni delle madri, da tutto il mio impossibile, eterno amore per tutti. Ma c'è chi questa possibilità la banalizza affidandosi ai soli bisogni della carne. Marina, guarda bene dentro il nero. Lì ci trovi tutto l'amore del mondo. Non ho bisogno di guardare nel nero, l'ho già conosciuto. Ma la ringrazio lo stesso. Aspetto. Da dove vieni? Non me lo ricordo. Da mille posti diversi. Come le bolle di sapone. Già, come le bolle di sapone. E cosa c'è lì dentro? Vuoi sapere quello che c'è o quello che rappresenta? Quello che c'è. Foglie. E che te ne fai? Li scrivo. E che cosa scrivi, sentiamo? Poesie, appunti, pensieri. E si possono leggere? No. Perché? Perché non è il momento. Vabbè, ma ammazziamo il tempo. Non si ammazza il tempo con il sangue degli altri. Vabbè, per carità, io voglio solo leggere quei fogli. È la stessa cosa. Ma non hai paura di perderli? Come potrei perdere l'unica cosa che ho? Come potrei perderli ora? Anch'io scrivo poesie. Ah. Cosa c'è di meno facile che scrivere semplicemente? Lo credi semplice? No, non ho detto che è semplice, ho detto che non è facile, che è diverso da semplice. Non ho capito. Una cosa facile non è una cosa semplice. La cosa semplice rende semplicemente bello quello che si scrive, sempre se si è capaci. Facile è una soluzione appetibile perché spera che un giorno scrivere potrà diventare meno facile e più semplice, chiaro, no? No. Sto dicendo che per realizzare una cosa, qualunque cosa, bisogna partire da un punto A e lo metto qui, per arrivare a un punto B e lo metto qui. E in mezzo ci sono milioni di migliaia di centinaia di miliardi di soluzioni che noi non conosciamo, ma ci sono. Sto inventando un nuovo sistema di pensiero, una nuova scienza che fa di ogni cosa del mondo, oltre quelle già apparentemente, ripeto, solo apparentemente conosciute, un'eccezione da conoscere. Credo sia patafisica sperimentale la mia invenzione. Sono alla soluzione di tutti i quesiti che mi sono posto a pagina alfa del quaderno Omega. Ma devo andare cauto. Guarda, li vedi? Li vedi tutti questi puntini nell'aria? Ecco, quelli l'importante sono... è riuscirci a vivere. Con la patafisica? Devo provarci, ma non so se avrò il tempo. Perché tu lo credi facile? No, ma che cosa servono dei fogli se rimangono chiusi dentro una valigia per sempre? Non rimarranno lì per sempre. Loro vivono. Sono carne viva e vivranno per l'eternità. E se invece rimangono lì? Impossibile. Ma come fai a dirlo? Ci sono milioni di miliardi di possibilità. No, adesso basta, ti prego. E se questo fantomatico qualcuno disprezzerà i tuoi fogli? Se dovesse accadere, mi dispiacerà. Ma lo ritengo impossibile. Io sono Marina Svetaeva. C'è tutta la mia vita lì dentro, tutti i miei amori, tutte le mie sofferenze, tutti i miei più intimi desideri, tutto, completamente tutto. E sono così fiera di quello che ho prodotto e che restituisco al mondo, che adesso stare qui... No, tu non hai bisogno di stare qua. Da come parli sembra tutto così bello, così vivo, così succulento. Ma perché le tue carni non le porti altrove invece di stare qua a riempirci le orecchie con i tuoi versi pieni di fottuta vita? Certo che ne ho bisogno. Non posso restare ancora, né dentro né fuori di me. Devo lasciare tutto e sperare che la mia anima sia colta da chi ne sentirà la forza. Ma che stai dicendo, dai? Ma quale anima, ma quale forza? Senti, mi stai annoiando, ok? È necessario continuare a parlare di Dio, amori e martiri e quindi rovinarmi l'attesa? Oppure possiamo semplicemente stare in silenzio? Non voglio rovinarti niente. L'attesa è sacra. Scusate se esisto, eh? Scusate se amo. Scusate se esisto. Scusate se amo. L'odore del cuoio è molto diverso dall'odore del sangue, ma hanno lo stesso colore. Molto, molto interessante. E invece me la stai rovinando l'attesa. Io ho già le palle piene di tutto quello che accade lassù. Non capisco perché devo stare qua a sopportare te. Scusate l'amore un cazzo. E comunque non vacillo. Sono certa che alla fine di tutto questo peregrinare c'è chi se ne prenderà cura. E basta! Basta! Ma perché se ci tieni tanto alle tue poesie piene d'amore e di vita stai qua? Se c'è tutto questo amore, se c'è tutta questa vita, vai Cristo, vai! Vai! Vai! E non inonda il mondo del tuo amore, che ce n'è tanto bisogno. L'ho fatto fino a ieri. Oggi sono stanca. Non ho più la forza. Marina, non l'ascoltare. A me interessa quello che dici. Come ti viene in mente di dire una cosa del genere? Uno scrive per amore, poi la porta nel mondo. Se ci mette il sangue, quel sangue verrà riconosciuto. Ma perché? Tu che cosa ne sai? Tu che cosa ne sai di quello che faccio io, di come scrivo e di come vivo? Io sto solo dicendo che a me tutto questo amore puzza di finto, di immaginario, non esiste. È vero, è così. In alcuni casi non ci siamo neanche mai incontrati, non conoscevamo le nostre voci, ma scrivevamo l'uno all'altro dell'anima nostra. Anche se non esiste nella carne, l'amore può esistere ed esplodere nel pensiero. È nell'assenza presenza che si concentra tutto questo sentire, non certo nella presenza assenza, che è solo un vacuo ripiego. Per anni ci siamo scambiati lettere ardenti, io e Rainer, Alexander, il caro vecchio Boris e gli altri. Tutto questo amore che tu disprezzi lo provo davvero, lo vivo davvero e lo scrivo davvero. Ma tu sai che il tizio che troverà i tuoi fogli potrebbe non capire un pene canino di quello che hai scritto? La tua poesia potrebbe essere un'invenzione che sta all'amore quanto una valigia di cuoio sta a un lucida scarpe. L'amore e il pensiero sono due sostanze che basicamente si separano, ma solo acidamente si possono fondere. Ma il mondo è basico, non acido. Come pensi di essere compresa? Purtroppo ho come la sensazione che le perderà, le butterà, o forse ci farà degli aeroplani. E tutta la tua vita piena d'amore si incastrerà tra le antenne delle TV. È solo una delle possibili soluzioni. Ma se dovesse accadere? Tu ti sarai trascinata una valigia piena d'amore senza un motivo, quando invece potresti trovare mille altri modi per... Non lo so. Ci devo ancora pensare a cosa è meglio fare. Ma a grandi linee, tu ti fidi troppo degli altri. È difficile credere negli altri, ma il cammino delle comete è il cammino dei poeti. Bruciando e non scaldando, strappando e non coltivando, esplosione scasso, il tuo sentiero tortuoso e chiomato non è previsto dal calendario. Perciò andrà tutto bene. Molto interessante, l'hai scritto tu? Le comete stanno agli esseri umani come le bolle di sapone stanno agli arcobaleni esplosi. Questa me la segno anche sul taccuino. C'è chi se ne prenderà cura. Non so quando, ma accadrà. Sai, Marina, tu sei coraggiosa. Io onestamente ho paura. Di cosa? Di essere illeggibile, di non esserci per gli altri. Io cerco, e alla fine mi ritrovo sempre con uno stuzzicadenti in mano. Uno stuzzicadenti? Sì, uno stuzzicadenti mi serve. Sentiamo. Cos'ha di tanto utile uno stuzzicadenti, scienziato? Mi dà sollievo e mi diverto. Io lo metto in bocca qui e poi lo infilo tra le gengive. Fino schifo, su, ti prego. Fino all'osso. Tutto qui? Non provi dolore? Sì, un po', ma non posso farne a meno. Cioè? È l'unico modo che ho per capire che esisto, che non sono un'immaginazione. A volte mi viene il dubbio se ci sono o non ci sono, e se quello che accade è reale oppure no. Io alla fine mi convinco che ci sono, che quello che vedo che è abbastanza brutto esiste, e che io debba scrivere delle cose che sembrano brutte abbastanza, ma in realtà sono bellissime. E così chi le legge le mie cose alla fine si salva, ma nessuno lo capisce. Si salva da cosa? Dal brutto, è semplicissimo. Ti spiego se vuoi. No. Se tu per innumerevoli motivi scopri che tutto quello che fai per creare il bello in realtà crea il brutto, allora dovrai sforzarti di trovare all'interno di una serie di soluzioni non calcolabili che fanno delle bolle di sapone un'eccezione, la bellezza dalla bruttezza. Ma il bello non esiste, è solo un'invenzione di cui l'uomo ha bisogno per sopravvivere, ma è solo apprezzando il brutto che ci si salva dall'infelicità. Nient'altro? Provare disprezzo. Cosa? Provare disprezzo. E per chi? Per le persone che non mi leggono, che non mi studiano, che non mi capiscono, che mi giudicano. Ma di chi stai parlando? Ma come di chi? Di loro! Di tutti quelli che non leggeranno, di tutti quelli che non capiranno, di tutti quelli là, che bello le bolle di sapone. Ma quando arriva? Arriva, piccolina, arriva. Grazie. Quindi anche tu scrivi? Sì, più o meno, ci provo. Faccio del mio meglio. Ma la cosa che mi piace di più è inventare nuove regole, nuove parole, nuove formule, nuovi intrugli. E ci riesci? Sì, fantasticamente! Almeno su di me funzionano benissimo. Prima di metterli in commercio faccio sempre da cavia, così so di cosa parlare. Perché tu riesci a vendere le tue invenzioni? Sì! No! Cioè, vabbè, non tutte, anzi quasi nessuna, ma a volte mi è successo. Riesco a diventare molto convincente quando fingo una malattia terminale. Cosa? Purtroppo, o per fortuna, la finzione supera di gran lunga la verità. C'è chi si preoccupa per me e io ne approfitto. Così dopo sono libero di fare quello che mi pare e soprattutto ho qualche soldo in tasca per bere e sperimentare. Bere è un lavoro e io devo farlo tutti i giorni per tante ore di fila. Per tante ore di fila? Sì. Quante? Ma quante cose vuoi sapere? Ammazzo il tempo. Giusto! Fin quando è necessario. Non devo dare conto a nessuno, solo la mia regola. E quale sarebbe? Non ubriacarti mai, Alfred. Triste sì, allegro anche, ma ubriaco mai. E riesci sempre a seguirla? Inequivocabilmente sì. Perché se non lo facessi non potrei guardare quello che succede agli altri mentre bevono e bevono e bevono e bevono. E bevono, loro bevono con te? Ma sì, certo, sono i miei amici. Ma io non bevo come loro. Non ho lo stesso obiettivo. Io mi voglio divertire. Bella regola. Beh, anche loro vorranno divertirsi se decidono di bere, no? Ma no, no, no. Loro lo fanno per farsi trovare dall'ispirazione. Per farsi trovare. E beh, che c'è di male? Che stanno lì e aspettano. E io mi annoio. E io devo cercare. E per cercare mi devo muovere. E per muovermi devo stare in bicicletta. E per stare in bicicletta ci vuole equilibrio. E l'equilibrio è una legge relativa e non universale. Perciò l'ubriachezza sulla bicicletta ha delle regole precise che vanno rispettate. Io devo restare lucido, se no non ci riesco. Capisco. Ma come fai a restare lucido se bevi così tanto? Diciamo che mi piace rischiare. Mi diverte mischiare alcol, aceti, superalcolici, allucinogeni, senza un vero e proprio criterio, eh? Cioè io provo a seguirne uno, ma poi mi faccio prendere la mano e non so mai dove andrò a finire. Finora io sono sempre tornato al punto di partenza, ma stavolta credo di aver mischiato gli ingredienti in una pozione magica alchemica buonissima. Aveva il sapore di perfezione divina e inchiostro blu. Sono quasi certo del successo dell'operazione. Io per questo sono qui ora. Ma non c'è nessuno che ti piace? C'è qualcuno con cui parlare? Sembra che a te non piaccia nessuno. No. C'è qualcuno. Rachilde. Rachilde? Sì, Rachilde, ma non ne voglio parlare. Vi siete lasciati? Molto tempo fa. Ma allora come fai a parlarle? Beh, io le parlo attraverso questo. E lei mi risponde. Semplicemente abbiamo smesso di vederci, ma ripeto, non ne voglio parlare. Quindi anche tu conosci la presenza? Nell'assenza, sì, certo, è un concetto molto, molto interessante. E non ti dispiace non poterla vedere? Ma sì, certo. Ma mica posso portarla con me. Io non posso portare Rachilde con me. Comunque, non mi sembra il caso di parlarne. È difficilissimo starti dietro. Guarda, non avevo dubbi. Cos'è? Sei una specie di scienziato? Più o meno. Sicuramente preferisco inventare soluzioni immaginarie a base di inchiostro che sprecarlo come fanno i miei colleghi. Ma tu, piuttosto, ti sei guardata allo specchio? Perché? Che ho? Non te lo dico, però se vuoi io sono un ottimo specchio. Non ho bisogno di te per guardarmi. Non ho dubbi, sarò io a guardare te. Ah, sarai tu a guardare me? Sì. No, non puoi farlo. E perché? Perché non voglio, perché non mi piacciono i tuoi occhi. E tu credi di riuscire a chiudermeli? Ma cosa ti gira per la testa? Io sono una persona per bene. Ma che hai capito? Io voglio solo studiarti. Non ci provare. Perché? Io lo faccio per lavoro. Io non faccio la cavia. Ti sbagli, lo siamo tutti qui. Non mi toccare, lasciami in pace. Dove vai, Silvia? Ritorno alla festa. Non puoi. Perché? Perché tra un po' chiudono. Stammi lontano. Come hai detto che ti chiami? Alfred, Jarry, Alfred. Bene, bene, molto bene. Perché, che ho fatto? Niente, niente, continua a giocare. Smettila, sei disgustoso, ti prego, smettila! Non posso, ti prego, fammi cercare. Ma cosa devi cercare? Sono questa, non mi vedi? No, no, tu non sei solo questa. Non giocare con me. Dai, dici chi sei. Io ho parlato. Adesso tocca a te. Perché? Perché dovrei dirvi chi sono? Tanto tra un po' non vi rivedrò più. Non rivedrai mai più nessuno. Guarda, non sempre. Vedo l'ora. Chi sei tu? Che gioco stupido è questo? Il nostro. No, il vostro. No, il nostro. Adesso basta. Io non voglio giocare a nessun gioco. Io voglio solo essere lasciata in pace, prendere il mio vagone e andarmene. Devi prima dirci chi sei. Tanto qui la metro non passa. Io non devo dire niente a nessuno. È inutile nascondersi, ti conviene parlare. Sei circondata. Sei circondata. Mi chiamo Silvia. Scrivo. Sono una persona per bene. Una famiglia, una madre, un marito, due figli. Io... Oh, oh. Tu hai Silvia? Sì, io. È una coscienza, oh. Che cos'hai, Silvia? Ho una famiglia. Un marito, io. Ho le mie poesie, i miei bambini, il mio giardino, le fragole, i tulipani. Io sono una moglie perfetta. E tuo marito dov'è? Non lo so. Ti ama? Sì, moltissimo. Lui è così caro con me. E dov'è ora? Non lo so. Non lo so, ma sono domande da farsi in questi momenti. I tuoi bambini? Loro sono a casa, nei loro lettini, con il latte sul comodino. E tu, Silvia, dove sei tu? Io sono... Io non lo so più dove sono. Ma sì che lo sai! Sei alla fermata della metropolitana! Basta, stai zitto tu! Non posso smettere! E invece devi smetterla. Non provare a giocare con me, non con me! Sei così bella, Silvia, anche quando ti arrabbi. Ma che cosa volete tutti da me? È così chiaro il percorso che vi porta in fondo al tunnel che siete commoventi nel vostro dimenarvi. Siete già andati. Questa volta il corpo e il cervello non vi salveranno dal nero in fondo al tunnel. Ma non potete capirlo ora. Solo quando sarete lì tutto sarà inesprimibile. Inesprimibile? Può darsi, signor controllore. Ma anche tu sei al limite oltre cui ci sono i binari. Sei come noi. Sei al nostro stesso punto. Sì, può essere. Ma almeno io lo so e aspetto. E invece voi parlate. È così preciso ed accurato il silenzio. Vi aiuterebbe molto. E allora vi prego, facciamo silenzio. Tu non capisci. Tu non esisti. Se tu sapessi quanto mi piacerebbe. Ma purtroppo esisto. È da 20 anni che provo a smettere, ma non mi danno tregua. Guardami. Lo vedi il mio teschio Einstein? Morire è un'arte. Come ogni altra cosa, io lo faccio in modo eccezionale. Io lo faccio che sembra come inferno. Io lo faccio che sembra reale. Ho la vocazione. È facile abbastanza da farlo in una cella, eh? È facile abbastanza da farlo e starsene lì. È il teatrale, per questo scrivo, per questo striscio, per questo annuso. Di fronte a loro io non ho consistenza, sono vuota. Dietro i miei occhi ho una caverna pietrificata, un vuoto infernale. Non ho più appigli, sono tutta qui. E lì. Sono tutti spariti. Tutti chi? Mia madre. Il mio daddy. Morto e sepolto, che se fosse ancora vivo lo ucciderei con le mie stesse mani. Mio marito Ted, che non sopporta che io sia un poeta più capace di lui, che preferisce scoparsi le ragazzine pur di non confrontarsi con me. I medici, che mi hanno spappolato il cervello con scariche elettriche, che non mi salveranno dall'unica certezza che ho. Oddio, ti prego, salvami, signore, dove sei? Io ho bisogno di te, non so chi sono né dove sto andando. E allora non ti sforzare di parlare. Accontentati del tuo bel faccino e usa quello, non sforzarti più del necessario. Dio è lì, non lo vedi? Cosa c'è, Silvia? Non stai bene? Ti ricordi perché sei qui? Fai la brava mogliettina, Silvia. Che ci fai di notte in giro per le metropolitane vestita come una puttana? Non hai paura? Esisti, Silvia? Dai, vieni! Torna a casa, Silvia! Torna a casa! No! No! No, che cosa? Che cosa, Silvia? Coraggio, di qualcosa! Siamo tutti qui, no? Siamo tra di noi! Siamo tra di noi, ma io non vi conosco, io non vi dirò una parola di più. C'è un prezzo da pagare per spiare le mie cicatrici e c'è un prezzo da pagare per ascoltare il mio cuore. Eh sì, batte, E c'è un prezzo molto caro per una toccatina, una parola, un po' del mio sangue o di capelli o un filo dei miei vestiti. E sì, Herr Doktor, e sì, Herr Nemico, sono il vostro opus magnum, sono il vostro gioiello, creatura d'oro puro che uno strillo si liquefà. Io mi rigiro e brucio. Non crediate che io sottovaluti le vostre ansietà. Cenere, cenere, voi attizzate e frugate carne e ossa, non ne trovate un pezzo di sapone, una fede nuziale, una protesi dentale. E sì, Herr Nemico, e sì, Herr Lucifero, attento, attento. Tu esisti, Silvia. Tu sei ancora qui. Non sei già cenere. Manca poco. Quando arriva questo stupido vagone, non sono mai stata così vicina al mio più grande successo e ho voi accanto che non vi conosco e che non mi piacete. Mi guardate come se fossi un animale da laboratorio. Io vi odio. Io vi odio. Io non ho niente a che vedere con voi. Bugia. Bugia. Tu sei qui e qui non c'è nessun errore. Sei esattamente come noi. Io ti odio. Adesso basta. E tu? Sì, tu. Continuiamo a giocare. Ti piace ascoltare gli altri, ma a quanto pare non sei abituato a parlare. Apri quella bocca da poppante e parla. Tanto qui non passa niente per ora. Abbiamo tutto il tempo. Che cosa vuoi sapere? Perché sei qui? Mi annoiavo. Nient'altro? Sono stata lasciata sola. Da chi? Da chi non mi ama. E questo ti annoiava? No, ma tutto il resto sì. Tipo? Tutto il resto. Tutto il resto del mondo da cui è stata ritagliata la sagoma della persona che amo. Non c'è più. E ora c'è un buco e ai lati tutto il resto. Eh vabbè, ma è un buco troppo piccolo, bisognerebbe allargare. No, è abbastanza grande da contenere tutto il resto. Forte. Ci sono cose che devono andare così. E noi non possiamo farci proprio niente. Bisogna continuare ad amare. Amare è tutto. Sentire che la propria essenza è fusa con quella della persona amata è tutto ciò che conta. Io sono sicura che voi vi amate ancora. Al di là degli avvenimenti, al di là di tutte le ragioni, voi vi amate. E questo amore è vita. Vaffanculo. Perché? Vaffanculo. Tu e tutto questo amore. Vaffanculo perché tu forse non lo sai che cosa vuol dire sentirsi una merda. Vaffanculo perché forse non lo sai che essere rifiutati è la cosa peggiore che possa esistere. Vaffanculo perché tutto questo amore di cui tu parli a me mi ha dissanguata. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo! Va bene, calmati. Sì, sì, sì, mi calmo. Tu però non parlare mai più d'amore con me. Ma che cos'è tutto questo odio? Odio. Ho sempre più il sospetto che sia un sentimento comune. Io non odio, ok? Mi stanca farlo. Sembra di sì, però. No, sono solo molto arrabbiata. E con chi? Che è successo? Ti interessa veramente? Sì. Allora stai zitta. Sai, sei molto interessante, sai? Grazie. Vuoi che ti faccia da cavi anch'io? Non lo so, ma mi intriga moltissimo il modo in cui giochi con quello yo-yo. È bello, vero? A me sembra solo una rotella che perde e riprende gravità. A me piace moltissimo quando perde gravità. Uno yo-yo è un oggetto prezioso dalla forma longilinea con capacità avvolgibili e svolgibili. Questo è tutto per ora. Perché ti piace così tanto? Perché si possono fare tantissime cose con uno yo-yo. Tipo, puoi legare, unire, stringere, tirare, appendere. E poi è molto, molto resistente. Ma ci sarà qualcuno che ti ama? E dai, e non ricominciare, cazzo, ti prego. Va bene, ma avrai dei genitori? Sì, purtroppo sì. Purtroppo? Purtroppo, Marina. Mio padre mi ha distrutto la vita con tutte le sue cazzate religiose. Potete capire bene che per sopravvivere io non potevo permettere che un cattolico evangelico mi lavasse il cervello con tutte le sue stronzate su Dio, Cristo e Madonne. Mia madre La disprezzo per non averlo lasciato quando doveva e per non essere morta abbastanza presto. E mio fratello, sì, ho anche un fratellino per cui provo una specie di affetto. Ma sai com'è? Non abbiamo niente in comune. È terribile quello che dici. Lo so. Nient'altro? Diciamo che sono nata in un momento sbagliato e nel corpo sbagliato. Ma sei bellissima. Mi piacerebbe sentirti dire bellissimo, ma grazie, accetto il complimento. Capisco. Ma tu puoi vivere anche senza di loro? Sì, certo, certo. Ma per cosa? Per chi? Dove? Perché? Per scrivere. Scrivere? Io ho scritto sempre solo per sfuggire dall'inferno e non ha mai funzionato. Quello che ho scritto è scritto, io non voglio più metterci mano. Scrivere era come fermarmi a guardare qualcosa e io comprendevo che era l'unica espressione possibile di quell'inferno e sapevo che ne sarebbe valsa la pena. Allo stesso tempo però mi tagliavo un braccio, il naso, un orecchio. Le parole sono pezzi di carne gettate in una pentola d'olio bollente. Non mi interessa più continuare. Ho messo il punto sull'ultima pagina della mia vita quando lei se n'è andata. Adesso ho un dovere molto più grande. Non mi va tantissimo, lo ammetto, ma devo farlo per forza. E cosa vuoi fare? Andarmene. Ma per farlo ho bisogno di voi. Di noi? Sì, di tutti voi. Mi sarebbe piaciuto un pubblico migliore, ma ci siete voi, che devo fare? Ho mio preciso segnale. Dovete guardarmi. Guardarmi. Guardarmi finché non scompaio. Perché? E questo è il meccanismo. Mi stupisci, scienziato, non lo conosci questo esperimento? Ah, beh, sì, certo, questo è quello di quando... No, non capisco. E fin dove devi arrivare? In fondo alla galleria. Visto? Stai zitto tu. Aspetta e pensa quanto ti pare, ma non rompere i coglioni. Ma i tuoi genitori, dove sono? Non lo so. Ma magari ti stanno cercando. Ma chi, loro? No, no, no. Loro hanno smesso di cercare la dolce, piccola, tenera Sara. Lesbica e depressa. Ops. Allora non sei scemo. Purtroppo no, ma ci provo con tutto me stesso. Anche io, sai? Affinché tutto questo sembri normale. Non è normale. Lo pensi davvero? Tutto. Anche questo non è normale. E allora come si fa? Come si fa ad andare avanti se tutto quello di cui hai bisogno è una piccola cuccia calda? Se tutto quello che fai, che sei, che vuoi, che scrivi e che sogni non piace a nessuno? Se l'amore che provi è così grande che se lo contieni esplodi? Noi non siamo niente, ok? Noi non siamo niente, niente di niente, se non dei buffoni travestiti da pagliaccio dati in pasto a dei sopravvissuti di una festa che non lo sanno che cos'è l'inchiostro. Il cervello stritolato, il sangue. Loro lo sanno. Ti assicuro che lo sanno. Ma ti negano la cortesia di fissarti e voltano la testa mentre cadi. Come si dice? Esistono solo omicidi. Al mondo nessuno si è mai suicidato. È terribile. E la festa deve continuare. La musica anche. La gente ha pagato un biglietto. Il pagliaccio sparirà e arriverà il leone. Ho l'ammazzo nel suo cavallo bianco. Sono le immagini di un circo. Sì, lo sono. Da piccola mi piaceva immaginare che da grande sarei diventato un domatore. Adesso il circo mi annoia terribilmente. Non sono molto simpatici i domatori. Perché? Perché pensano di essere i padroni del circo. Ma sanno perfettamente che non è così. Lo dici solo per quel loro aspetto un po'... tracotante? No. Li conosco e basta. Io vengo da lì. Ma è bellissimo. Bellissimo. Sì. Per certi versi lo è. È tutto così magico e sorprendente. Mortale. Quando ero piccola io amavo andare al circo. Quando si è piccoli si amano molte cose. Come ti chiami? Ti interessa davvero? Io sono Sara. Piacere. Piacere mio. Tu capisci cosa intendo? Credo di sì. Tu capisci cosa intendo quando parlo di amore? Sì, credo di sì. E tu? Hai mai amato? Intendo in modo del tutto incontrollato. È il motivo per cui mi trovo qui adesso. Ho rischiato tutto per diventare quello che sono. Mi è costato tanto. Ma alla fine ci sono riuscito. Adesso sei diventato quello che l'amore è riuscito a plasmare. No. Io sono il risultato di un'operazione. Non capisco. A volte è meglio dire di no. E perché non l'hai fatto? Perché era necessario dire sì. Non sarei riuscito nel mio intento se non avessi amato Jean così tanto. E se lui non avesse operato su di me in quel modo. Vedi però, tu almeno sei stato scelto. Se questo dovrebbe sollevarmi, sì. Sono stato scelto. Ma non credo che sia stata proprio una fortuna. Ok, ma almeno non ti sentivi solo. C'è forse qualche differenza tra essere scelti e sentirsi soli. Io non ho scelto niente, non ho deciso niente. Io ho assecondato, ho accettato. Ho messo a disposizione il mio corpo. E tu che cosa facevi, fai, nel circo? Non faccio più niente. Comunque ero un acrobata, giocoliere e funambolo. Tu cammini sul filo? Sì. Jean voleva così. E credevo di volerlo anch'io. Ma mi sbagliavo. Perché non lo fai più? Sono caduto. Due volte. Io in realtà sono già morto. Ma se ti sto parlando, forse ancora non del tutto. Dov'è Jean? Puff. Sparito. Alla mia seconda caduta mi ha lasciato su una barella. Ero diventato un vaso rotto. Improvvisamente troppo poco interessante per lui. Lo scultore aveva perso la sua opera d'arte. Ed io non ero capace di fare nient'altro se non ripetere tutti i giorni lo stesso allenamento. Ogni giorno lo stesso, in silenzio, il silenzio. Senza più camminare su un filo vero ci cammino lo stesso. E non so come si cammini diversamente. E forse non voglio neanche saperlo. Beh, questo Jean non è stato molto gentile con te. Sei stato banalmente sedotto e abbandonato. Come capita a tutte le persone di poca personalità. Sei orribile. Può darsi. Ma avevo appena 17 anni. E non sapevo cos'ero e cosa sarei diventato. Jean sembrava lo sapesse. E così ho preferito che fosse lui a sapere tutto. Non lo odi per quello che ti ha fatto? No. Non ci riesco. Ma lo sogno tutte le notti che mi parla, mi parla, mi parla. E io lo guardo mentre gli inchiodo la bocca. E gli cucio il cazzo sul petto. E gli infilo negli occhi fili d'acciaio. Ma no. Non lo odio. Lo lascerei comunque vivere. Vivere? Ti sentivi Dio lassù? Sì. Quando sei lassù il mondo si capovolge. Non sei più tu. Interviene qualcos'altro che ti priva di ogni volontà. Mi piacerebbe camminare sul filo. E in qualche modo lo stai già facendo. Come si fa? È difficile spiegare. È il filo che fa tutto. Spiegami. Bisogna innamorarsi del filo, sedurlo e dargli tutto ciò di cui ha bisogno. Sarà lui a fare il resto per te. Un filo interessantissimo. Sì. Il filo e la sua volontà. O per meglio dire, la volontà del filo. Il filobus del regno dei cieli si attacca su due pali e in mezzo ci cammina un aquilone dorato, figlio di Odino, signore di Polonia, re dei draghi di Blutucca. Sei forte! Come hai detto che ti chiami? Abdallah Bentaga. Bellissimo! Re Abdallah! Re del filo degli aquiloni che si segmentano nello spazio, passo dopo passo, con la lama affilata di Monsieur Jean. Ottimo! Ho già capito tutto. Fammi vedere come si fa. Vuoi vederlo davvero? Sì. Ma che fai? Sei impazzito? Torna indietro. Sì. Forse sono pazzo davvero, ma c'è qualcuno di normale e ragionevole che cammini su un filo. Ti prego, torna indietro, non è ancora il momento, torna indietro. Che fai, non vieni? Non volevi provare? Visto? Non è difficile. Adesso torni indietro. Ehi! Ehi, sono qui! È bellissimo! Camminare sul filo è bellissimo! Non farlo mai più. Forte! Forte! Ho capito. C'è qualcuno tra di noi che ha sbagliato qualcosa. Scusa? Sì, c'è qualcosa che impedisce alla metro di arrivare. E che cosa c'entriamo noi? Voi siete qui. E se la metro non passa è perché c'è qualcosa che non ha funzionato, qualcosa non è stato concluso. No. Mi dispiace contraddirti, piccolina, ma qui non c'è nessun errore. E allora è una maledizione. Ma sei impazzita? Secondo te non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare? Ma a questo punto mi viene il dubbio che qualcuno non abbia tralasciato qualcosa. È una possibilità. C'è qualcuno di voi che ha lasciato in sospeso qualcosa? Io no. E tu? Sei sicura che hai fatto tutto? Certo. Io ho organizzato tutto. Io avevo deciso che questa volta non sarebbe stata una banalissima richiesta d'aiuto, ma un atto voluto. E vi posso garantire che non ho lasciato speranze a nessuno di credere il contrario, perciò stai tranquilla che stai parlando con la persona sbagliata. Non c'è altra spiegazione, però. Perché questa tortura? Perché non arriva? Io non ce la faccio più. La pazienza è un'arte che non si impara facilmente. E tu dovresti saperlo, sei una poetessa. Per concludere un'opera c'è bisogno di tempo. E questo tempo non possiamo deciderlo noi. E invece sì. Altrimenti non saremmo qui. Altrimenti non avremmo preso questa decisione. Questa attesa mi sta logorando e io voglio sapere di chi è la colpa. La colpa non è di nessuno, ok? Siamo qui e dobbiamo solamente aspettare il momento perfetto. Non lo vuoi anche tu? No, a questo punto non lo so più. Io voglio solo andare. Non posso più resistere, vi prego, se avete dimenticato qualcosa, sforzatevi di ricordare e risolvete questo problema. Ma mi sembra un po' presuntuosa, se mi posso permettere. E se fosse stata lei a dimenticare qualcosa? Io? Stai scherzando? Io ho lasciato tutto perfetto. I bambini sistemati, tappati in camera e nutriti, ho scritto a mia madre, ho acceso il fuoco, è tutto perfettamente organizzato. E allora non ti resta che stare tranquilla e resistere un altro po'. Non posso più resistere. Sto arrivando al limite. Il mio corpo morto ha il sorriso della compiutezza. I suoi piedi nudi sembrano dire: siamo arrivati fin qui, è finita. E invece a me sembra che non sia ancora arrivata l'ora. I tuoi piedi sono già oltre il limite. Moore, dove sei, Moore? Scaldiamoci un po', Moore. Vieni dalla tua mamma. Moore? Chi è Moore? Mio figlio. Non vive con te? Sì, ma è complicato da spiegare. Vabbè, spero che manchi poco, ma fin quando non passa... Non mi sopporta. Tutti i figli non sopportano i propri genitori. Sì, ma lui ne ha tutte le ragioni. Dov'è? Non lo so. Avrei solo voluto vederlo prima di venire qui. Gli ho lasciato una lettera, spero solo la legga e capisca finalmente quanto lo amo. Lui ti ama già. Vedrai, andrà tutto bene. Lui non condivide le mie scelte, lui non mi capisce, lui è molto diverso da me. È maschio. Sì, può darsi che sia per questo. Ma è l'unica persona cara che mi è rimasta in tutti questi anni. Arriverà anche lui, se questo è quello che vuoi. No, non è questo quello che voglio. Capisco. Abbiamo vissuto in mille posti diversi, mille spostamenti, scappando e fuggendo da una guerra che ha distrutto il nostro paese. Ho lottato con tutta me stessa per continuare a vivere, per ritrovare le persone che amo. Ho portato con me Moore su un'isola, facendolo disertare da un esercito che gli ordinava di nascondere bombe lungo la strada del nemico. Non potevo sopportare che mi togliessero anche lui o che mi tornasse indietro solo un cumulo di ossa carbonizzate. E intanto scrivevo, non avevo altro appiglio. C'era qualcun altro? Mio marito e mia figlia sono stati arrestati. E com'erano? Come sono? Ali ha È una ragazza così intelligente, sensibile, bella. Siamo come due sorelle, sa tutto di me. Abbiamo vissuto fianco a fianco nei momenti più duri di tutta la dittatura. Non avevamo cibo, eppure riuscivamo sempre ad addormentarci con qualcosa di caldo nello stomaco. Strappavamo la legna dai pavimenti per accendere il fuoco e provare a scaldarci come potevamo. Insieme a noi c'era Mur, il figlio che amo di più e che non mi ama per quello che sono. Sì, ma tu scrivi e tutto l'amore di cui non si accorge un giorno lo leggerà. Chissà se ci riuscirà. Se tu sapessi quanto amore ho scritto. Ho vissuto le mie più grandi storie d'amore attraverso la carta e la penna. Stanno tutte lì. Lì c'è Marina. Marina? Sì, Marina Svetaeva. La poetessa. La rivoluzionaria che tutti considerano coraggiosa. Io invece non conosco persona più paurosa di me. Ho paura di tutto, di me stessa. Nessuno vede, nessuno sa che già da un anno all'incirca cerco con gli occhi un gancio. Non voglio morire, ma voglio non essere. Inizio ad avere freddo. Signore, può accendere l'ariatore? Fa freddo qui. Tanto è inutile. Lei si diverte così tanto a vederci tutti qui come dei cani ad aspettare qualcosa che non arriva, non è vero? Se veramente l'avete deciso, basta aspettare il momento giusto. A te, piccolina, voglio dire una cosa. Un'ultima cosa. La vita non è fatta di certezze, ma di supposizioni. Come direbbe il nostro amico Alfred, esistono una serie di infinite possibilità. Perciò goditi questo momento e non pensare al finale, quello è già stato scritto. È tutto il resto che deve ancora compiersi. Io non ho vissuto tutti questi anni per arrivare a quel momento, ma per arrivare a questo momento. Ora lo so. Ora so che solo attraverso il nero, su nero, su nero, su nero, io posso aprire davanti a me le infinite strade che mi portano a Dio. Noi siamo qui unicamente per arrivare all'estasi che non siamo riusciti a compiere. Ma è proprio questo non riuscire che ci rende vivi, che ci fa scrivere, che ci fa inventare, che ci solleva da terra. E tutto quello che non riusciremo a compiere rimarrà inesprimibile, ma sarà già dentro le nostre opere. Che sia estasi, rivalsa o necessità, beh, questo dipende dalle vostre vite e da quello che avete fatto per renderle interessanti. Vedete, io penso che ad un certo punto, per diventare interessanti, beh, bisogna avere a che fare con il nero. Su nero, su nero, su nero. E tu lo sai molto bene, piccolina. Tu lo sai che è il nero degli elettroshock ad aver reso più forte la tua vocazione. Esattamente il contrario di quello che gli altri pensavano di ottenere. Loro volevano indebolirti e tu invece ti sei rafforzata. Loro volevano toglierti ogni volontà e tu invece, furbetta, hai fatto del nero dell'elettroshock la tua personale opera d'arte. Noi facciamo parte di un grande tunnel e in mezzo a questo grande tunnel ci arrediamo case, ci illudiamo, ci svegliamo e ci accorgiamo di essere fatti per amare le persone che sono intorno a noi. Di un amore distruttivo, infiammato, negato, illeggibile, inesprimibile, ma è pur sempre amore. Purtroppo però ci rendiamo anche conto che il tempo a nostra disposizione per stare accanto agli altri, beh, ha una data di scadenza. Non è sufficiente per appagare la nostra sete di esserci. Non ci disseterà mai dall'arsura dell'inferno in cui ci infiliamo tutte le volte per trovare il fuoco della verità. Noi abbiamo scelto tutto dall'inizio alla fine. Abbiamo deciso di ridipingere le coordinate del mondo. Ci siamo resi responsabili della nostra vita e della nostra morte. Noi siamo i nostri genitori e non l'abbiamo fatto per rassicurare nessuno. Perché è più forte la necessità di esserci, di fermare il cuore, di essere il proprio pubblico elettroshock. Sarebbe ridicolo essere ricordati come un'immagine carina, o no? Lei non è il capostazione. No, e non ho mai detto di esserlo. E allora chi è? Un pittore. E cosa ci fa qui? Esattamente quello che fate voi. Aspetto. Mi sento come in una bolla calda. Esatto, è proprio una bolla. E la tua stufa è già accesa lì in fondo. Io non voglio più essere un... Tu rimani quello che sei. Qualunque cosa accada da adesso in poi resta perfezione. Io ho fatto così con le mie opere. Non le ho vendute né esposte se non in contesti che ne esaltassero l'essenza. Perché ho sempre pensato che ci vuole una certa coerenza tra idea e azione. Quindi rimani sul filo. Resisti un altro po'. Perché tutto questo nero? Vedi, io penso che ad un certo punto sia più profondo dire poco. E per quel poco che ho capito, il nero è l'unica via d'accesso per avere un rapporto più intimo con l'universale. Perché il nero ingloba chi lo guarda e lo rende piccolo di fronte al tutto. Ed io mi sento proprio così piccolo di fronte al tunnel. E ora che la mia solitudine è una condizione, non più un'apparente necessità, ora che il mio stare è concluso, beh, io desidero arrivare all'apice. E so che anche voi avete il mio stesso desiderio. Sì. Lo sapevo che potevo fidarmi di te. Abbiamo tutti lo stesso desiderio. Qual è il vagone? Il primo. Allora abbiamo deciso. C'è qualcuno che si tira indietro? Questa volta no. Bene. Amo la coerenza tra idea e azione. Se non volessimo la stessa cosa, non ci saremmo mai incontrati qui. Non credi? Alfred! Si è addormentato. Mind the gap! Mind the gap! Ecco il gancio.